qui tra i miei ricordi, sai, sospesa ai margini del nulla ormai. Guarda, sembro così tranquilla io, riflessa qui allo specchio a modo mio. Affioro una parola, il gesto di un addio, frammenti di una storia, e forse questa sono io, l'immagine imperfetta di un sogno andato via. Lì sopra un'altalena dondola, nascosta in un cortile. Le lacrime riaffiorano, confusa e indefinita nebbia. Noi rido piano per non farti ridere, dimentico, evito il ricordo e te, la pioggia che non cade e tu sei andato via. Presagio nucleare e la paura dell'oblio. Nell'alba c'è il tramonto, il cielo è buio ormai. Ti cerco in un respiro e non ci sei. Ti mando una canzone d'amore. Ma ho dimenticato le parole. Volevo dire tante cose. E poi... si compierà, possibile utopia, noi.